Bravissimi! Il tornado ora è vostro alleato. I venti rispondono alla vostra volontà. È il momento di guidarli fino alla capitale.